Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera gentili ascoltatori, da Simone Spezia, sono le 17:08 minuti, giovedì 21 giugno e apriamo questa puntata di Focus Economia. Parleremo oggi innanzitutto in apertura della vicenda Fiat, ossia della sentenza che per una questione di discriminazione sindacale costringe l'azienda a riassumere 145, non andiamo errati, lavoratori a Pomigliano, e cercheremo di capire poi quali potranno essere le mosse dell'azienda a questo punto. Chiaramente ci sono nel frattempo dichiarazioni che arrivano in questo momento dal ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Dice: non conosco le motivazioni della sentenza, ma è qualcosa di cui tenere conto, e diciamo che su questo non c'è minimamente dubbio. Parleremo dell'assemblea di oggi di Confcommercio e sentiremo qualche voce, tra l'altro anche quelle dello stesso ministro Passera, proprio dall'assemblea di Confcommercio. E poi ovviamente andremo sui temi europei. Questa sera si apre un importante Eurogruppo, il tutto in vista naturalmente del famoso Consiglio europeo che dovrebbe salvare l'euro. Si continua a parlare della proposta del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Qual è questa proposta? Di far sì che l'IFSF, il Fondo Salva Stati, intervenga in sostanza sul mercato secondario, ossia sul mercato dei titoli di Stato, per comprare questi titoli di Stato e abbassare spread e rendimenti titoli di Stato dei paesi cosiddetti periferici, naturalmente Italia compresa. Ci sono altri dettagli che emergono su questa vicenda. C'è chi in realtà non è particolarmente convinto di questa soluzione, non solamente a livello governativo, e quindi i tedeschi e i finlandesi che su questi temi stanno spingendo piuttosto duramente, ma c'è chi non è convinto nemmeno tra gli economisti. Sentiremo un'opinione, vedremo di capire qual è l'aria che tira, e parleremo anche, dopo le parole di ieri della Federal Reserve e quindi le decisioni per quanto riguarda le nuove operazioni che dovrebbero dare sostegno al sistema economico e in particolare alle banche, se è alle viste qualcosa di nuovo da parte della Banca Centrale Europea. I mercati che guadagnavano oltre 1,5% fino a una mezz'ora fa circa e che adesso invece hanno virato in negativo in quasi tutta Europa, se si fa eccezione per Milano, dove il FTSE MIB guadagna lo 0,38%, il FTSE OSHARE lo 0,36%, Francoforte perde lo 0,4%, Londra mezzo punto percentuale negativa, e New York con il Dow Jones che lascia sul terreno mezzo punto percentuale, lo Standard & Poor's 500 lo 0,76. Iniziamo come sempre l'euro quota 1,2588 contro dollaro. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Oro in calo a 1603,5 dollari l'oncia. Anche il petrolio apre in calo e soprattutto oggi è sceso sotto gli 80 dollari al barile per la prima volta da ottobre. Nelle contrattazioni elettroniche al mercato di New York, il contratto WTI ha segnato un ribasso dell'1,9% in apertura. Nel frattempo, dal lato della benzina, il prezzo si porta per la prima volta da febbraio sotto la soglia di 1,8. Si respira un po' per quanto possibile. L'Eni ha tagliato i listini di 2 centesimi, portandoli nel servito a 1,795. Giù anche il gasolio a 1,683, che è il minimo da gennaio. Le cronache dalla crisi, che come sappiamo ormai non riguarda solamente l'Europa e gli Stati Uniti, ma anche la Cina, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, si sta verificando un rallentamento. Quanto sia più o meno sensibile questo rallentamento non è effettivamente chiaro, perché delle statistiche ufficiali effettivamente non ci può fidare fino in fondo. Detto ciò, c'è un rallentamento in Cina, forse abbastanza pesante, un hard landing e non un soft landing come si attendeva. Dunque la Cina sta cercando di attuare regole più semplici per l'accesso ai propri mercati di investitori stranieri, per aprire di più il proprio mercato finanziario. Chiaramente un segnale in questa direzione. L'autorità di controllo per i titoli ha proposto un abbassamento dell'ammontare degli asset in gestione, un taglio del numero minimo di anni di esperienza attualmente richiesto alle società per entrare appunto nel mercato cinese. Segnali, anche se lievi, di rallentamento anche dalla Germania, un nuovo calo dell'indice PMI manifatturiero tedesco, che rimane comunque sui minimi da 3 anni. Sulla base delle indicazioni dei direttori di acquisti si è scesi a 44,7 punti da 45,2 di maggio. Nel frattempo, per restare sui temi europei, c'è quello che le cronache che arrivano dalla Grecia. Mentre viene stilato il programma del nuovo governo in 14 punti, che comprende la riforma del sistema fiscale, questioni che riguardano la disoccupazione, tagli agli stipendi e alle pensioni, alcuni dei temi affrontati, stanno tornando in banca depositi per 10 miliardi di euro. Erano soldi, ve l'abbiamo raccontato spesso, che erano stati ritirati dalle banche greche durante il periodo tra le due elezioni, quando si temeva che la sinistra di Syriza potesse ottenere un risultato ancora maggiore e magari aspirare al governo, e quindi si iniziava a fuggire dalla Grecia, iniziavano i risparmi a fuggire dalla Grecia. Ebbene, a quanto pare 10 miliardi starebbero tornando, questo secondo alcuni alti funzionari bancari. Poi bisognerà vedere nell'effettività. Nel frattempo, altro paese sotto tiro, la Spagna, che fa il pieno nell'asta dei bond, dei bonus, quindi, e però i rendimenti crescono tantissimo. Quello medio per i titoli a 2 anni è balzato al 4,7% dal 2 di marzo, quello del quinquennale al 6% dal 4,9 di maggio e quello del triennale al 5,5% dal 4,8. Nel frattempo all'Eurogruppo è attesa per oggi la richiesta formale di aiuti di Madrid. Tra l'altro ci dovrebbe essere una conferenza stampa intorno alle 17:30, vedremo se saremo in grado di darvene conto naturalmente. Si diceva dell'ipotesi dell'IFSF che acquisti titoli di Stato ai paesi periferici. Ebbene, il Financial Times Deutschland dice che il piano del Premier Monti sarebbe aiuti senza condizioni e appunto con la Banca Centrale Europea, che dovrebbe comprare i bond per mandato appunto dell'IFSF, ossia il Fondo Salva Stati. Questo per tenere calmi i rendimenti e lo spread. E emergono anche indiscrezioni, ne parleremo più avanti anche di queste, secondo le quali la Banca Centrale Europea starebbe considerando l'ipotesi di abolire i rating delle agenzie esterne sui titoli di Stato dell'Eurozona, che vengono utilizzati come collaterale nelle operazioni di rifinanziamento dalle banche, quindi annullare l'effetto rating sui titoli di Stato detenuti dalle banche, per dirla molto semplicemente. Affronteremo questo tema più avanti, dopo le 18. E a proposito di agenzie di rating, a quanto pare secondo l'Espresso, la Corte dei Conti valuta una richiesta danni da 120 miliardi nei confronti delle agenzie di rating. In un'indagine, quella della Corte dei Conti, che è andata parallela a quella della Procura di Trani, questo per rapporti ritenuti avventati diffusi da maggio a novembre del 2011 sul debito pubblico italiano. Visto che siamo sull'Italia, i dati di oggi arrivano dall'export. Nei paesi extraeuropei si è segnato un più 5,5% su aprile in maggio, quindi una buona notizia, e un più 14,1% su maggio 2011. In calo le importazioni, con un più 1,2% su aprile e un meno 0,9% su maggio 2011. E arriva anche una notizia dal presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi, che fa sapere che le associazioni di imprese e banche si apprestano a lanciare un appello unitario per invitare il governo a tradurre in atti concreti l'impegno europeista per la crescita, iniziativa che sarà presentata a Milano lunedì. Nel frattempo i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro urgente a Monti e ai ministri per avviare un confronto sulla spending review. Spending review che, secondo il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, deve servire a evitare l'aumento dell'IVA. Come era prevedibile, di aumento IVA ha parlato anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Oggi l'assemblea, dice Sangalli, l'Italia è andata indietro di 15 anni, è più povera, l'IVA, l'aumento dell'IVA sarebbe un caporetto di famiglie e imprese. Sempre di tasse. Ha parlato oggi il presidente del Consiglio Mario Monti, soffermandosi sull'evasione. È una priorità assoluta per il governo che ho l'onore di presiedere, perché l'evasione fiscale erode la legalità e mina alle fondamenta il patto fra Stato e cittadino per almeno tre ragioni. Il patto fra Stato e cittadino, ma anche il clima di fiducia che deve esistere tra cittadino e cittadino, senza il quale un paese non solo non è un paese veramente civile, ma non può neanche essere un paese adatto alla crescita economica. Le dimensioni e la pervasività del fenomeno costituiscono un vulnus gravissimo alla credibilità dell'Italia. Così il presidente del Consiglio Mario Monti. È il 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Non vi abbiamo dato lo spread oggi, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. 423 punti in questo momento, in rialzo nella giornata di oggi. Ci segnalate che in provincia di Lecco, e questo avviene sempre quando diamo il prezzo della benzina, alla Eni il gasolio è a 1,577. Due cose: innanzitutto il prezzo che diamo è quello del servito, e poi un prezzo consigliato delle compagnie petrolifere ai distributori. Poi i distributori, nell'ambito delle loro possibilità, naturalmente fanno quello che possono. Abbassano, a volte alzano anche. Veniamo al tema di Fiat. Il Tribunale di Roma ha condannato l'azienda per discriminazioni contro la Fiom a Pomigliano. 145 lavoratori con la tessera del sindacato dovranno essere assunti nella fabbrica. Lo ha resonato la stessa Fiom, precisando che 19 iscritti avranno anche diritto a 3.000 euro per danno. Come si è arrivati a questa sentenza, tra le altre cose, comunica la Fiom? Allora, alla data della costituzione in giudizio, circa un mese fa, su 2.093 assunti da Fabbrica Italia Pomigliano, nessuno risultava iscritto alla Fiom. La Fiom ha chiesto un giudizio a un professore di Birmingham, uno statistico. In base alla simulazione, le possibilità che ciò accadesse casualmente risultavano meno di una su 10 milioni. Adesso non sappiamo se i giudici si siano basati proprio su questo, insomma, comunque la decisione c'è. Andrea Malan del Sole 24 Ore in studio con noi, grazie Andrea. Buonasera a tutti. Anche oggi ci ha raggiunto abbastanza presto e quindi si è beccato tutto l'inizio della trasmissione. Allora Andrea, innanzitutto un'idea su questa sentenza. Ci si poteva attendere una decisione di questo genere, secondo te? Dunque, io faccio una prima osservazione che cita il ministro Fornero, che ha detto è improprio commentare a caldo questa notizia. Ovviamente il ministro ha le sue ragioni, è vero però che non avendola letta e non avendo letto il dettaglio è difficile. Sicuramente il ragionamento statistico che hai fatto prima non fa una piega, cioè la casualità è difficile da individuare in questo evento, diciamo, statistico. Non ci voleva neanche un professor di Birmingham per arrivarci, bastava fosse uno studente del primo anno alla Bocconi. Detto questo, il paradosso nasce un pochettino con il rimedio che il giudice ha imposto, cioè ha imposto alla FIAT di assumere 145 dipendenti FIOM, in pratica imponendo una specie di quota FIOM sulle assunzioni, come si fa in casi di minoranze discriminate. Ora, ovviamente questo ha determinato un'immediata reazione degli altri sindacati, ricordiamo firmatari degli accordi con Fiat, mentre FIOM è rimasta fuori, che hanno detto no, ma allora vogliamo che siano assunti tutti i nostri iscritti. E Landini, Maurizio Landini della FIOM, ha rilanciato dicendo: a questo punto bisogna che la Fiat assuma tutti e 5.000 i dipendenti del vecchio, diciamo, della vecchia società di Pomigliano e non solo i 2.093 assunti finora. Diciamo che quindi la situazione è aperta a una serie di paradossi. Significativo il fatto che la Fiat finora non si sia pronunciata, ovviamente la situazione è delicata. Quello che possiamo dire è che sicuramente l'evento di oggi è l'espressione di una vera e propria battaglia tra Sergio Marchionne da un lato e la FIOM dall'altro, che va avanti oramai da mesi se non anni, a colpi di carte bollate, di provvedimenti, di ricorsi e controricorsi che la FIOM ha fatto, per esempio per quanto riguarda l'esclusione del sindacato, di questo sindacato, dalla rappresentanza sindacale in base al nuovo contratto Fiat firmato con gli altri sindacati. Diciamo, quindi torniamo c'è una battaglia in corso, c'è una battaglia in cui sicuramente il governo finora non si è voluto sbilanciare. E cosa potrà accadere? Ricordiamo che in parallelo si sta svolgendo, è in atto una delle peggiori crisi del mercato automobilistico in Italia e anche in Europa. La Fiat ha una serie di difficoltà, è in rosso come molti degli altri costruttori. Gli stabilimenti italiani, lasciamo per un attimo da parte Pomigliano che è un modello nuovo come la Panda, gli altri lavorano, se va bene, a metà tempo, se va male al 10-20-30%, come per esempio il caso di Mirafiori. Ovviamente tutto ciò non ha nulla a che fare con la disputa sindacale. Quest'ultima rischia però di impattare, come ha detto il professor Berta per esempio oggi, rischia di impattare sulla situazione, rischia di convincere, diciamo spingere ancora di più Sergio Marchionne e la Fiat in una strada lontana dall'Italia, a prendere decisioni che magari prenderebbero comunque, visto che c'è in una situazione di sovrapproduzione che è comune a quasi tutti i costruttori europei. Certo, si può osservare che data la situazione di aspro conflitto con la FIOM, da un lato ovviamente questa ha delle origini anche legate alle dinamiche sindacali del rapporto tra la FIOM e gli altri sindacati, un problema di leggi sulla rappresentanza sindacale che hanno permesso questo, che sarebbe troppo complicato andare a esaminare in dettaglio. Forse, data la crisi del settore auto, in altri paesi europei difficilmente si sarebbe arrivati a questo punto senza un intervento di mediazione magari da parte del governo. Sì, quindi il punto potrebbe essere in realtà come dire, una questione di gestione politica della vicenda, da un lato, e dall'altra parte poi naturalmente c'è forse una difficoltà nel comprendere una decisione del giudice per quello che ha sancito, e quindi non per il risarcimento che in sé, no? Che in sé ci potrebbe stare, piuttosto per la riassunzione. Allora ti fanno notare, Andrea, io te lo devo dire, no? Se fosse stato della statale di Milano e non della Bocconi ci sarebbe riuscito. Beh, probabilmente ci sarebbe riuscito. Ci dite anche, non ci vuole, come al solito, messaggi contrastanti, come ovvio, sulla vicenda Fiat. Ma che pretende Fiat? Ha assorbito Alfa, Lancia praticamente gratis e vuole fare il padrone della Ferriera. E ancora alla fine Fiat chiuderà lo stabilimento e i dipendenti sapranno chi ringraziare. Ecco, qua mi sembra che l'ultimo ascoltatore abbia colto qual è il tema. A tuo giudizio, che impatto potrebbe avere sull'investimento di Fiat questa decisione, che ripetiamo è l'ennesimo atto di una guerra, come ci dicevi, che si sta combattendo tra FIOM e l'azienda? Esatto, più che la decisione di oggi è l'insieme dell'avvertenza che ha sicuramente un impatto. Ricordo che innanzitutto devo ammettere, faccio una parentesi di 10 secondi, il conflitto di interessi, perché io ho studiato la Bocconi, quindi è per quello che ho citato la Bocconi. Chiudo la parentesi, è in atto questa battaglia. Ricordo che che 5 anni fa Sergio Marchionne in un discorso aveva detto che preferiva trattare con i sindacati italiani che non con quelli americani, questo prima di comprare la Chrysler, prima della crisi americana, eccetera. Ovviamente le cose sono molto cambiate, abbiamo appena detto in parte perché. Come se ne esce? Perché finora nessuno ha fatto passi indietro, nessuno si è, come dire, ha riavviato una trattativa. Credo che da questo punto di vista, come in base all'ultima citazione che facevi, è vero che uno degli esiti possibili è che Marchionne e la Fiat dicano va bene, a questo punto dobbiamo chiudere 2 stabilimenti, li chiudiamo. Credo che Marchionne, ricordiamo, ha già fatto questa ipotesi in un'intervista qualche mese fa, dicendo se il mercato rimane a questi livelli ci sono 2 stabilimenti di troppo. La Fiat ha ancora nell'Italia il suo secondo, diciamo il suo terzo mercato in questo momento dopo gli Stati Uniti e il Brasile, ma ha comunque un mercato molto grosso. Credo che nel decidere se e quali stabilimenti chiudere guarderà anche alla sua posizione di mercato e non solo alle vertenze sindacali. Allora ci scrivete: fare discriminazioni sui luoghi di lavoro adesso è diventato segno di produttività, ma fateci il favore, Fiat è un'azienda fallimentare per altri motivi. Non si sta dicendo che fare discriminazioni sui luoghi di lavoro è diventato un segno di produttività. Semplicemente si sta ragionando sull'effetto che può avere questa sentenza sulle future decisioni di Fiat, che è un'azienda e quindi decide un po' quello che le pare, cioè se a un certo punto gli azionisti decidono che dall'Italia bisogna andarsene, se ne vanno, insomma, no, poco c'è da fare. No, abbiamo detto che, diciamo, dal punto di vista della, appunto, premettendo, non avendo letto la sentenza e il ragionamento che ci sta dietro, però il ragionamento statistico è abbastanza chiaro, il motivo per cui il giudice abbia potuto accertare la discriminazione è abbastanza chiaro, quindi da questo punto di vista, così come abbiamo detto che i problemi che ha la Fiat, peraltro in parte comuni ad altri costruttori, sul mercato e per quanto riguarda i conti in Europa, hanno veramente poco a che fare con questa vertenza sindacale. Ci scrivete ancora sui modelli di Fiat, ma che modelli, roba di 10-15 anni fa. Fiat ha impostato la trattativa, ci scrive un altro ascoltatore, per creare i presupposti per l'incidente perfetto ed ottenere le ragioni di un trasferimento. C'è anche chi sospetta questo. Ancora, tutto questo non farà altro che accelerare l'uscita di Fiat in Italia. E invece l'ultima domanda che ti faccio, Andrea, è su una questione che abbiamo già affrontato in passato ed è quella di Termini Imerese. Ci scrive un ascoltatore: ma la mossa di Dirisio di subentrare a Fiat è stata solo pubblicitaria oppure c'era un business plan credibile? Diciamo che è arrivata a testé una dichiarazione del segretario del WILM di Palermo, Vincenzo Comella, che dice: DR Motor è definitivamente fuori dall'operazione di rilancio dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Non si può dire che non l'avessimo detto, no? No, quello l'avevamo detto, le difficoltà di Dirisio le abbiamo scritte fin da anche prima che gli fosse assegnato, diciamo, firmasse il primo accordo su Termini. C'è un'altra agenzia di oggi che parla di una riavvio da parte del Ministero di contatti con potenziali partner esteri, si parla di 17 case automobilistiche. Ora il problema qui di Termini purtroppo è che quando lo stesso Sergio Marchionne 15 giorni fa dice pubblicamente noi siamo aperti a produrre nei nostri stabilimenti, intendendo quelli ancora attivi, quindi non Termini Imerese, siamo aperti a produrre auto di qualsiasi partner venga a chiedercelo, è chiaro che si evidenzia come ci sia una situazione in cui qualsiasi costruttore in Europa farebbe ponti d'oro a chiunque vada a produrre nei suoi stabilimenti. Questo significa che per uno stabilimento appena chiuso e che non ha più dietro alle spalle la Fiat, la situazione è veramente difficile. Credo sia difficile immaginare che una Toyota o anche un cinese o anche un'altra azienda vengano a produrre lì. Chiarissimo, grazie ad Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Ci riferiva tra l'altro della contrarietà a questa sentenza da parte dei sindacati, per quanto abbiamo un Raffaele Bonanni, segretario della CISL, che dice che ciò che fa la magistratura va bene comunque, però insomma le perplessità ci sono, tanto che la WILM Campania ha detto di non escludere un ricorso contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha dato ragione alla FIO, ma anche la WILM dice sgambati a tanti iscritti che ancora non sono stati riassorbiti ed è impensabile che la FIOM abbia un canale preferenziale grazie ad una sentenza. Noi adesso sentiamo che cosa ha detto invece il protagonista, per così dire, che è il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini. Noi ci rivolgiamo direttamente al governo, al primo ministro, al Parlamento e anche alle forze politiche, perché ormai nessuno può avere più degli alibi. Di fronte a una situazione di questa natura è compito anche del governo e delle forze politiche garantire in tutti gli stabilimenti della Fiat le libertà e i diritti sindacali. E non è più tollerabile che invece ci sia un silenzio o che si tenti di non parlare di quello che sta avvenendo. Proprio perché il primo ministro, il governo, il Parlamento, le forze politiche hanno come compito quello di garantire l'applicazione della Costituzione nel nostro paese ad ogni livello. E mettiamo insieme un paio di domande che ci sono arrivate al 349-238-6666. La prima è su a quanto stanno le obbligazioni governative americane, all'1,59% come rendimento, quasi 1,6. Ci chiedete anche se questo calo dello spread che c'è stato è dovuto anche all'andamento invece al rialzo del rendimento dei titoli di Stato tedeschi e quindi non all'abbassamento di quelli italiani. In realtà nella giornata di oggi i titoli tedeschi hanno subito un netto calo all'1,52%, i decennali tedeschi, e sono in realtà calati anche quelli italiani, ma di meno, sono al 5,73% e lo spread a 423 punti. E visto che ci siamo, parliamo di mercati. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, era partita, e anzi, fino a un'oretta fa circa, la giornata sembrava ottima, mentre invece abbiamo chiuso poco sopra la parità. Esatto, parlando con i trader hanno messo in evidenza innanzitutto che i volumi scambiati sono abbastanza ridotti, per cui è più facile che il mercato sia volatile, si naviga un po' a vista insomma. Poi fino a un'ora fa lo spread puntava verso quota 400, era arrivato a 403 punti, e tra le sale operative si è diffusa soprattutto la convinzione, i trader parlavano di un quantitative easing per l'Italia, banalmente acquisto di titoli di Stato, ovvero che vada prima o poi in porto la proposta di Mario Monti che si è frenato lo spread attraverso l'acquisto di titoli di Stato, proposta che è stata già bocciata ieri sia dalla Commissione Europea sia dalla Merkel, però chissà, magari con l'incontro di domani qualcosa potrebbe uscire fuori, almeno questo è quello su cui scommettevano i trader, e questo spiega perché l'Italia anche sul finale, nonostante abbia bruscamente frenato, è l'unica positiva, il FTSE MIB più 0,14, mentre le altre borse sono andate giù. E l'impatto di questa voce che è circolata, secondo la quale Moody's si starebbe preparando all'abbassamento del rating, al taglio del rating di 17 banche, se non sbaglio, Eleonora? Sì, però sempre parlando con i trader, quindi riferisco, non è che do giudizi, le agenzie di rating hanno sempre un impatto sempre minore, infatti lo si vede, lo si è visto anche negli ultimi giorni quando sono stati annunciati dei tagli, ormai si naviga veramente a vista e si aspettano piuttosto delle azioni concrete, delle novità da parte delle autorità europee, che poi siano il fondo ESM, il fondo EFSF o in qualche modo la Banca Centrale Europea, non è dato sapere. Ok, la questione quindi è eminentemente politica. L'euro ha subito un brusco calo nel frattempo, 1,25,71. Partiamo però dai titoli positivi, su tutti Diasori in un guadagno del 5,6%. Sì, Diasori oggi si è letteralmente infiammata, ma soprattutto perché si è infiammata la concorrente Sorin, che è molto più piccola, ma è volata dell'11,16%, attestandosi a 1,69 euro. La Bloomberg ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale un fondo di private equity, Charterhouse, starebbe sondando i partner, i soci della società, per comprendere se andrà in porto un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto a 2 euro. La Mittel, che è il principale azionista di Solin, ha confermato che effettivamente da mesi stanno ricevendo delle manifestazioni di interesse. Per adesso è stato precisato che non è stata formulata alcuna offerta, però è stata, diciamo, una mezza conferma a quest'ipotesi. I titoli quindi hanno registrato un rialzo dell'11%, ma hanno riacceso i riflettori soprattutto su tutto il comparto biomedicale, ed ecco perché anche Diasorin ha messo a punto questo progresso del 5-6%. A guardare principali rialzi e ribassi, tra l'altro, Eleonora, mi dicevi, si naviga a vista. Sembra anche a me che non è che ci sia un tema particolare, perché c'è Diasorin che è il titolo migliore, c'è Mediolanum poi al 4, che guadagna il 4,5%, Salvatore Ferragamo e quindi il lusso che guadagna il 3,2%, A2A l'energia il 3,2%, il Monte dei Paschi il 3,08%. Non c'è un tema particolare in questa giornata, no? No, c'è molta volatilità. Ad esempio Finmeccanica era andata bene i giorni scorsi, oggi ha perso lo 0,98%, oppure sì, ci sono dei titoli che tengono di più, come quelli del lusso, quelli che sono esposti in aree lontane con le cui economie corrono e tendono quantomeno a fare sempre meglio del mercato. D'altra parte sempre i trader sottolineano che ci sono volumi scarsi e c'è grande attività di trader high frequency trader, trader che agiscono in modo automatico, comprano e vendono nell'arco di pochi secondi, di minuti, sì. E quindi questo ovviamente esaspera la volatilità del mercato. Sì, più che loro probabilmente i computer. Senti Eleonora, il Monte dei Paschi più 3,08%. Più 3,8% perché ormai si avvicina la data di lunedì è un giorno importante visto che il consiglio di amministrazione dell'istituto analizzerà il piano industriale firmato dal neo amministratore delegato Viola. Ci si aspettano novità, magari quel giorno verrà annunciata anche la cessione di alcuni asset importanti, e evidentemente ci si aspetta soprattutto che ci sia la conferma effettiva che non verrà varato alcun aumento di capitale, come il mercato continua tuttavia a temere, visto che ricordiamo l'EBA, vale a dire l'autorità bancaria europea, ha imposto un rafforzamento del capitale per 3,2 miliardi. Ci chiedete quanto vale MPS, 20 centesimi sostanzialmente, 20 centesimi a qualcosa, 0,2039 per essere esatti, tra i titoli in negativo Tenaris un calo del 2,96% e Mediaset un 2,5%, Eleonora Micheli. Sì, anche in questo caso le Mediaset erano salite ieri sull'onda di un report positivo di Mediobanca che scommetteva su una ripresa del mercato pubblicitario in giugno, oggi invece è arrivata la doccia fredda. Altre banche d'affari hanno infatti ritoccato al ribasso le stime, in primis Goldman Sachs, ma seguita anche dall'italiana Centrobanca, che teme per Mediaset visto che è esposta nei due paesi a rischio, ovvero Italia e Spagna, dove da mettere in conto da qui a fine anno un rallentamento comunque della raccolta pubblicitaria, per cui entrambe le banche consigliano di stare alla larga un po' da Mediaset, ma anche eventualmente da altri titoli che fanno televisione e vivono quindi di pubblicità. Brevemente Eleonora, Ansaldo, che in realtà è andata molto meglio per tutta la seduta, poi ha chiuso con un guadagno dello 0,65%. Sì, durante la seduta i titoli si erano messi in evidenza, avevano vantato guadagni più consistenti, e questo perché è circolato un report nel quale si ipotizza che Finmeccanica, che controlla l'azienda, potrebbe pensare a un delisting per poi in seconda battuta vendere Ansaldo STS. Evidentemente in giornata c'è chi aveva dato peso a tale report e così aveva acquistato le azioni. Infine è tutto il gruppo, come dire, di quella che chiamavamo un tempo Galassia Ligresti, all'indomani dell'ok da parte dell'antitrust all'acquisto da parte di Unipol. Tutto bene, no? Sì, tutto bene. titoli hanno guadagnato più o meno tutti oltre il 3%, Fondereside più 3%, Unipol più 3%, l'antitrust ha infatti dato l'ok, ha ovviamente posto alcuni paletti che tra l'altro si allargano anche a Mediobanca e Unicredit, tuttavia ha dato l'ok all'operazione di integrazione tra Unipol, Fondereside e la controllante Premafin, quindi l'operazione sembra essere in un certo qual modo sdoganata, anche se ovviamente i colpi di scena qua sono sempre all'ordine del giorno. Grazie, grazie ad Eleonora Micheli e come sempre ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore. Grazie Eleonora e buonasera. Buonasera. Noi adesso ci chiedete proprio a proposito dei mercati, poi torneremo sui temi europei, alla fine quanto ha chiesto la Spagna per chiudere il buco delle banche. Non si sa ancora, era prevista una conferenza stampa alle 17.30, probabilmente la richiesta ufficiale arriverà durante l'Eurogruppo e quindi avremo dettagli maggiori. Noi adesso però parliamo dell'assemblea di Confcommercio. Questa mattina a Roma, appunto, l'assemblea annuale di Confcommercio, con fischietti, slogan e cartelli, non ne possiamo più, questa classe politica se ne deve andare, un gruppo di imprenditori della Confcommercio di Padova, munito di scopi, ha inscenato una manifestazione all'ingresso dell'assemblea nazionale. E poi ci sono le parole del presidente di Confcommercio, Sangalli, dice un balzo all'indietro di quasi 15 anni per i consumi delle famiglie italiane, tornano ai livelli del 1998. Sangalli parla di effetti recessivi pesanti, l'Italia è più povera. E ancora sull'aumento dell'IVA sarebbe la caporetto di famiglie e imprese. E così invece sulle tasse, a quando tasse più basse? Abbiamo raggiunto un livello di pressione fiscale che per chi le tasse le paga si attesta attorno al 55%. È un livello che zavorra drasticamente investimenti e consumi. Tanto più se poi, come emerge dalla lettura del documento di economia e finanza, simili livelli record dovessero sostanzialmente mantenersi fino ad almeno il 2015. Inutile girarci intorno, non possiamo permettercelo, pena lo schianto dell'Italia produttiva, così come non possiamo permetterci né l'avventurismo di riduzioni di pressione fiscale in deficit o comunque senza solide coperture strutturali, né la disobbedienza fiscale. L'itinerario deve essere chiaro e la decisione politica deve essere fortissima ed è una decisione che deve essere assunta ora, proprio ora, per rafforzare la fiducia delle imprese e dei lavoratori, dai cittadini e delle famiglie in un futuro diverso e migliore. Insomma, diteci quando si inizierà a ridurre le tasse. Lo chiediamo a chiare lettere ed attendiamo, lo chiediamo a chiare lettere ed attendiamo una risposta urgente ed altrettanto chiara. È una risposta che non può essere ulteriormente rinviata, perché siamo agli sgoccioli. E lo ripeto, rischiamo davvero lo schianto dell'Italia produttiva. Così il presidente di Confcommercio Sangalli, ci scrivete le patate con la lira erano a 600, con l'euro, insomma, le patate erano a 600 lire, con l'euro a 2400, pari a 1,20, eccolo alla crisi grazie euro. Ma è inutile dare la colpa all'euro, di questo ne abbiamo parlato tantissimo. Forse le colpe andrebbero distribuite equamente, probabilmente tra gli stessi commercianti e sicuramente tra chi non ha fatto nella maniera dovuta dei controlli che dovevano essere fatti. Ancora, Ancora Carlo Sangalli dice ci vuole il rigore contro l'evasione fiscale, ma niente bollino blu o liste nere degli evasori. Se non si rimettono in moto crescita e occupazione, aggiunge, la medicina del rigore diventa insostenibile. E poi pesa come un macigno, tanto sulla congiuntura quanto sulle prospettive di medio termine, l'impatto delle manovre correttive di finanza pubblica rafforzate dalla manovra Salva Italia. Servono fatti, dice, sulle ragioni della crescita, l'Europa e l'Italia ci mettano la faccia. Fatti, ha proseguito Sangalli, come Eurobond, Project Bond. E poi via le infrastrutture dal computo del deficit. Quindi una richiesta forte per l'Europa e per l'Italia, considerate, ve lo ricordiamo, notizia di poco fa, ve l'abbiamo data poco fa appunto, il presidente di Confindustria Squinzi ha fatto sapere che le associazioni di imprese lunedì presenteranno un nuovo appello al governo a tradurre in atti concreti l'impegno europeista per la crescita. Due notizie, 14 banche spagnole con operazioni sul territorio nazionale prese in esame dalle società di consulenza alle quali è stato chiesto un audit, un controllo, per dirla semplicemente, dal governo, hanno un fabbisogno di capitale compreso tra 51 e 62 miliardi in una situazione di stress di mercato e tenendo conto di tutti i segmenti di prestito. L'altra notizia arriva invece sulla vicenda Fiat, della quale abbiamo ampiamente parlato all'inizio. La Fiat presenterà ricorso contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha dato ragione alla FIOM. Attenzione che non è ancora un comunicato, è un'indiscrezione, lo si apprende dall'azienda che non fa per ora alcun commento sul merito della sentenza. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni. Stavamo parlando però dell'assemblea di Confcommercio e avevamo lasciato in sospeso, dopo le parole del presidente Sangalli, la reazione, le parole del governo e quelle del sindacato. A proposito dell'IVA, dice Sangalli, la definisce, c'è il rischio con l'aumento dell'IVA di un accaporetto per famiglie e imprese, così il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Lui per primo ha parlato di cifre di recupero possibile, che sono 5, 6, 7 volte i problemi di IVA che abbiamo dietro l'angolo. E quindi questo vuol dire che noi abbiamo a disposizione, facendo in modo che tutti prendano una parte dell'onere, di alleviare l'onere enorme che invece sta sulle spalle di chi pienamente e completamente fa il suo dovere fiscale. Ma su quello che ha detto sulla fiscalità, sull'evasione, sull'elusione, io prendo quello che ha detto Carluccio, lo infilo, non aggiungo neanche una parola. Certamente accolgo fino in fondo il, non più che l'incoraggiamento, la richiesta forte che Sangalli fa sul tema fate di tutto per evitare la clausola di salvaguardia dell'aumento dell'IVA. E qui lo sforzo che si sta facendo in termini di spending review è proprio finalizzato a questo, come abbiamo detto chiaramente. Dove Carluccio naturalmente sta per Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio, la cui voce abbiamo sentito proprio un attimo fa. Interviene invece sul tema dell'evasione il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Intervenire sull'IVA senza ridurre l'IRPEF è un disastro per lavoratori e pensionati. Sull'IVA a condizione che si tolgano i soldi dall'IRPEF, altrimenti ha ragione lui, unificare forti tasse indirette con quelle dirette è una situazione insostenibile per i cittadini. Questa è la nostra opinione. Credo che lui sulle tasse abbia ragione, alla condizione però che si approvi una discussione drastica nei confronti degli evasori, che non sono dei benefattori, gli evasori, sono coloro che minano le basi, la convivenza civile, come in ogni altro paese civile e democratico nel mondo. L'evasore fiscale è il peggior nemico della convivenza civile. Così dunque Raffaele Bonanni, ci chiedete, per favore rispondete, perché abbiamo parlato prima di come sono andati oggi in borsa i titoli di Fondiaria Sai. Cosa deve fare chi ha l'assicurazione auto con Fondiaria Sai? Segnalo che se ne è occupato proprio questa mattina Salvadanaio, e andando sul nostro sito www.radio24.it si può riascoltare la puntata. Si faceva il punto tanto per i clienti quanto per i risparmiatori. E noi cambiamo argomento adesso e passiamo dall'assemblea di Confcommercio finalmente a parlare di Europa. Nel frattempo, a proposito di commercio, continuano ad arrivarci le vostre valutazioni, visto che si parlava di questione di euro. Sì, oggettivamente la vicenda di come è andato il changeover, ossia il passaggio dalla lira all'euro, evidentemente ancora pesa e ancora naturalmente ce ne ricordiamo tutti quanti. Però, appunto, sì, è un problema dei commercianti, un problema anche di come sono stati fatti i controlli. Proprio di euro parliamo adesso con l'Eurogruppo che ci sarà questa sera e le proposte che ci sono sul piatto al momento, tanto per risolvere la crisi in maniera definitiva, e quindi quelle più a lungo termine, quanto quelle più a breve, quelle per contenere gli effetti finanziari, cioè evitare che paghiamo dei tassi di interesse eccessivi sul nostro debito. Saluto Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. E saluto anche Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale, editorialista della Stampa. Professor Bruni, buonasera. Buonasera. E da lei poi vorremmo sapere bene che cosa ne pensa di quest'ipotesi lanciata da Mario Monti, a quanto pare ben accolta o non malamente accolta dagli altri leader europei, dell'uso dell'IFSF, ossia del Fondo Salva Stati, per acquistare obbligazioni di paesi periferici, tra cui ci siamo anche noi tra l'altro, per abbassare i rendimenti e gli spread. Nel frattempo però vorrei con Alessandro, iniziare da Alessandro Merli, perché oggi è circolata tra le azioni possibili della Banca Centrale Europea, è tornata a circolare un'ipotesi, ossia che la BCE sta considerando l'ipotesi di abolire il rating delle agenzie esterne sui titoli di Stato dell'Eurozona, titoli che vengono utilizzati come collaterale dalle banche nelle operazioni di rifinanziamento, sostituendoli con dei parametri di valutazione interni alla Banca Centrale Europea stessa. È una indiscrezione che è circolata in giornata, che potrebbe rappresentare un alleggerimento per le banche, tanto se ne è parlato nei giorni scorsi. Ti sembra una possibilità concreta, Alessandro? Non so se sia concreta, sicuramente non è immediata, cioè questo discorso di introdurre dei rating interni è in discussione alla BCE da qualche tempo ed è in discussione insieme ad altre banche centrali, soprattutto la Federal Reserve e la Bank of England, però non è un discorso per oggi, quindi non sarà un tipo di intervento che aiuterà le banche nell'immediato. Questo è una valutazione che all'interno della BCE stanno facendo e lo stanno facendo insieme ad altre banche, come dicevo, però non è una cosa che verrebbe introdotta immediatamente. Quello che invece dovrebbe essere varato a brevissimo, anzi dovrebbe essere già stato deciso dal Consiglio della BCE, potrebbe essere annunciato domani, è un cambiamento delle regole del collaterale che riguarda l'accettazione da parte della BCE di titoli strutturati, soprattutto basati sui mutui. Cioè cosa succede? Le banche sono andate a rifinanziarsi presso la BCE anche per somme ingenti negli ultimi mesi, però la BCE le finanzia naturalmente in cambio di garanzie, in cambio di collaterali, di titoli che queste banche consegnano. Allora, per alcune banche questo collaterale sta cominciando a scarseggiare, in particolare per le banche spagnole. Siccome invece le banche spagnole hanno abbondanza di questi titoli strutturati basati sui mutui immobiliari, potrebbe essere concesso loro e a tutte le altre banche, ma servirebbe soprattutto a loro, di consegnare questo tipo di titoli. Questo consentirebbe a loro di continuare a finanziarsi presso la BCE. Credo che questa sia la cosa più immediata. La questione del rating credo che sia una cosa da più venire, non è una soluzione della crisi per oggi e neanche per domani. E la domanda che ti voglio fare, Alessandro, è questa. Allora, ieri la Federal Reserve ha chiarito che pronta ad intervenire di nuovo, come dire, per sostenere le banche. È alle viste una qualche azione della Banca Centrale Europea, non solo da questo lato, ma anche dal lato del sostegno all'economia? Beh, credo che l'aspettativa sia che la prossima riunione, che è fissata per il 5 luglio, la Banca Centrale Europea abbassi i tassi di interesse. Attualmente sono all'1%, c'è questo falso tabù secondo il quale abbiamo un problema, abbiamo perso Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, poi vedremo se riusciremo a collegarci di nuovo. Nel frattempo invece io vorrei ripartire proprio da questo col professor Bruni, come si dice, docente di economia monetaria internazionale, editorialista della Stampa, per capire se secondo lei oltre allo strumento dei tassi, naturalmente, c'è qualcos'altro che ha in mano e che può fare ancora la BCE dopo le massicce iniezioni di liquidità all'inizio dell'anno, professore. Ma credo che la BCE possa fare qualunque cosa serve a creare, diciamo, un ponte verso iniziative di supporto che però devono venire dai fondi intergovernativi e comunitari. Non possiamo affidarci a finanziamenti a medio lungo della Banca Centrale. Quindi la Banca Centrale regola la liquidità, cerca di tenere in ordine i mercati, ma le azioni di supporto di medio lungo termine sono delle decisioni politiche che devono prendere i governi. E da questo punto di vista anche Mario Draghi mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, ha detto, insomma, noi non possiamo giocare un ruolo sostitutivo della politica, no? Assolutamente no, questo è uno dei, diciamo, dei miglioramenti netti che c'è nella gestione della BCE ultimamente, che sta dando i suoi frutti, perché sta mettendo in sostanza i governi con le spalle al muro, devono decidere, insomma. Naturalmente è un gioco tirare la corda e può essere pericoloso, alla fine rischia di cedere poi la banca centrale se gli altri non cedono, e se cede dopo aver insistito per non cedere perde credibilità, quindi è un gioco molto molto pericoloso, ma confido che chi lo sta giocando lo sappia giocare. Dicevamo, Alessandro Merli, che abbiamo recuperato al telefono, si ragionava col professor Bruni di eventuali altri strumenti, mentre invece sullo strumento classico ci dicevi mi sembra che sia stato sostanzialmente deciso, quantomeno il mercato se lo aspetta, che la BCE tagli i tassi. Diciamo che la questione è stata discussa già a giugno, la valutazione che ha dato la BCE della situazione economica è piuttosto negativa, sicuramente peggiorata rispetto ai mesi precedenti. Io penso che a questo punto la BCE abbasserà questo tasso dall'1, qualcuno dice allo 0, più probabilmente allo 0,75, qualcuno dice addirittura allo 0,5, e porterà il tasso dei depositi che paga alle banche ancora più in basso, qualcuno dice addirittura a 0. Nel frattempo non so cosa sia successo, mentre non ero collegato, era caduta la linea, però è uscita la notizia che le banche spagnole avranno bisogno, secondo la valutazione di quei due consulenti indipendenti, di 62 miliardi di dollari di nuovo, scusate, 62 miliardi di euro di nuovo capitale, quindi molto al di sotto dei 100 miliardi che l'Europa aveva previsto di poter stanziare, e sopra però la cifra che era stata di circa 40 che era stata indicata dal Fondo Monetario. 62 miliardi di euro è la necessità di ricapitalizzazione delle banche spagnole, secondo la valutazione delle due. Sì, è la notizia che davamo in apertura. Devo dire la verità, visto come con la frequenza con la quale vengono aggiornate queste cifre, insomma, e non stiamo parlando solamente della Spagna naturalmente, ma stiamo parlando di tutto quello che abbiamo visto negli ultimi due anni con la Grecia, insomma, forse un po' di cautela, insomma, quei 100 miliardi, insomma, tutto sommato aver cautelativamente previsto di più potrebbe andar bene. Lei che dice, professore? Non si può mettere una linea sotto, cioè dipende come va il mercato delle case, insomma, cioè, sono, bisogna vedere come vanno gli attivi, sì. Può scendere ancora. Insomma. Può scendere ancora. Veniamo all'altra questione, cioè questa proposta del Presidente del Consiglio Monti, che pare che abbia fatto breccia in una parte dei cuori europei, accolta ancora con una certa cautela, se non freddezza, dalla signora Merkel, di utilizzare l'IFSF, ossia il Fondo Salva Stati, appunto per acquistare titoli di Stato dei paesi cosiddetti periferici, abbassare lo spread dei rendimenti e quindi dare respiro finché non arriva la soluzione politica vera e propria. C'è chi lo fa, per esempio oggi Luigi Zingales sul Sole 24 Ore, dice, beh insomma però la dico molto brutalmente, è una sorta di manipolazione del mercato, tanto vale salvare, entrare e salvare direttamente uno Stato. Cioè dare gli aiuti direttamente al governo italiano. Lei che cosa dice, professore? Ma intanto non mi sembrano diretti necessariamente solo ai periferici, ma ai cosiddetti virtuosi, cioè a quei paesi che ne hanno, diciamo, bisogno, ma che si stanno comportando in modo conforme ai piani di rientro fiscale e di coordinamento fiscale della Commissione. Io credo che sia non solo un'idea che può dare una mano nel momento dell'urgenza, ma può essere, dovrebbe essere uno dei pilastri della futura politica di stabilità europea, dovrebbe essere un compito affidato agli European Stability Mechanism quando verrà effettivamente creato. Dovrebbe essere però creato con maggiore autonomia per poter fare anche queste cose. In altri termini, cosa succede? Un paese come il nostro, che ha un debito pubblico molto elevato, e che se anche fa una politica di bilancio estremamente accurata, ancora più disciplinata di quella che stiamo facendo noi, è comunque destinato per diversi anni a subire i contraccolpi di mercato di qualunque episodio traumatico che succeda nel mondo. Può anche fallire una banca americana e noi ci andiamo di mezzo, perché siamo per forza, i nostri titoli sono considerati dai portfolio manager di tutto il mondo come in una categoria da cui si cerca di uscire un po' quando ci sono i momenti di riduzione della propensione al rischio. Professore, mi permetta di sintetizzare il concetto un po': i tempi delle riforme e dell'implementazione delle riforme e degli effetti delle riforme non sono i tempi dei mercati, e quindi ci vuole qualcosa che garantisca stabilità sui mercati nel momento nel quale queste riforme vengono attuate ed entrano in vigore. Questo... Assolutamente sì. Zingales non capisco cosa dice, perché lui dice che i mercati capiscono e disciplinano, e questo è anche vero, però succede a scatti, cioè i mercati vanno filtrati e sappiamo benissimo che non hanno un comportamento che nel breve periodo è sempre razionale. Quindi la Commissione che controlla la disciplina di bilancio dell'Italia mette anche un bollino sul nostro comportamento, e a quel punto i governi danno l'ok a sostenere i titoli. Naturalmente sostenerli in modo non violento e lasciando filtrare quelle che sono le opinioni di fondo di lungo periodo del mercato, ma evitando che nei momenti come questo, dove c'è la Grecia che può da un momento all'altro può dare un colpo molto forte alla stabilità finanziaria internazionale, e noi dobbiamo essere protetti da questo rischio. Grazie al professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale, editorialista della Stampa, per essere stato con noi. Grazie ad Alessandro Merli, collega del Sole 24 Ore, che si occupa di vicende BCE per il quotidiano. Grazie a Mauro Del Corno e Alessandro Longoni in redazione, Paolo Corleoni in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia,